E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Oggi l'appuntamento mensile con Studio One. Sarà dedicata alle voci femminili della storica etichetta giamaicana. E la prima artista che andiamo a suonare è Marcia Griffith, forse la più rappresentativa di Studio One. Questa è la sua Truly. Bob Marley può essere definito il re del reggae, sicuramente la regina è Marcia Griffith. Lei che nasce il 23 novembre del 1949 a Kingston e fin da bambina si è esibita nel coro della chiesa. Come molti artisti giamaicani vengono dai cori della chiesa, cominciano lì a cantare, è un'usanza diffusa, diciamo, in Giamaica. Eh sì, è un'usanza diffusa anche in America, no? Col jazz, col gospel. E Marcia Griffith, che tra l'altro era compagna d'asilo di Bunny Wailer, e quindi insomma era già una bella classe, possiamo dirlo. E così a 15 anni viene notata da Philip James, che era un membro del gruppo vocale dei Blues Buskers, e quindi da lì si aprì il mondo e la carriera di Marcia Griffith, in cui viene notata da Byron Lee e The Dragonettes, uno degli artisti più famosi della Giamaica, e così viene presentata a Cox on Dodd e senza neanche un provino viene arruolata per Studio One. Ce ne sentiremo un po' di brani di Marcia Griffith, quello che viene adesso è Always Together. La scelta appunto di legarsi a Studio One rimarrà con l'etichetta giamaicana fino al 1969. Sì, è rivelata particolarmente felice, lì ha potuto conoscere tantissimi artisti, tra l'altro anche il suo idolo Bob Marley, che mosse i primi passi da Studio One, per poi diventare negli anni 70 una delle coriste ufficiali, le Aitriz, insieme a Rita Marley e Judy Movat. In questo periodo lei comunque registrerà tante hit come quelle che ci stiamo ascoltando, ed era sempre comunque, lei ha un ottimo ricordo di Cox on Dodd. La prima canzone incisa per la Studio One è Wall of Love, però questo pezzo in realtà non è mai stato pubblicato, in quanto la versione che avevano registrato non piacque particolarmente a Cox on Dodd, ma comunque di pezzi ne inciderà veramente tanti. Che definisce Cox on Dodd come un padre, e raccontava anche il modo di lavorare di Cox on Dodd. Tutta la parte musicale era affidata a Jackie Me Too, che lei definisce un ottimo musicista anche se non sapeva leggere la musica, e Cox on Dodd non metteva mai comunque la sua parola, lasciava ampio spazio ai musicisti e poi li produceva e li vendeva nel negozio accanto dei genitori. Adesso ci sentiamo Melody Life. It's adesso ci sentiamo My Ambition, sempre Marcia Griffith. Altro merito che attribuisce Marcia Griffith a Cox & Dodder, a quello di importare direttamente dagli Stati Uniti tantissimi artisti, e lei che comunque aveva il mito di Aretha Franklin, così poteva ascoltare anche i dischi di Curtis Mayfield, di Carla Thomas, di Dionne Warwick, di Nancy Wilson, insomma, che lei definisce le sue cantanti preferite. E sempre per merito di Studio One lei ha conosciuto anche Bob Bandy, e appunto formando un duo vocale che in Giamaica, ma non solo, ha davvero spopolato. Famosa Young, Gifted and Black di Marcia e Bob, che non ci ascolteremo in una versione del duetto perché insomma oggi è solo voci femminili. Adesso ci sentiamo Tell Me Now, sempre Marcia Griffith. A proposito di quegli anni, Marcia disse: in Studio One lavoravamo tutti come una famiglia. Se stavo registrando, altri cantanti come Bunny Wailer, Rita Marley o lo stesso Bob Marley sarebbero entrati e tutti avrebbero cantato l'armonia delle canzoni dell'altro. Questo fino all'incisione di Feel Like Jumping, il brano forse più famoso di Marcia Griffith. Chiudiamo questa selezione di Marcia Griffith proprio con Feel Like Jumping. famoso pezzo che ha fatto davvero successo e poi è stata la spinta per lasciare Studio One da parte di Marzia Griffith. Infatti lei ricorda che entravano di prima mattina e non andavano via fino a tarda notte e registravano in quello studio, ma venivano pagati giusto il tempo di un pranzo e quindi poi gli rimaneva davvero poco per vivere. E così Coxon Dodd gli parlò di royalties legate a questo pezzo, ma in realtà poi Marzia Griffith non vide una lira. E così poi, quando si presentò allo Studio One Harry J, che aveva una sua casa discografica e si era affiliato alla Trojan Records, e lei non ci ha pensato su due volte e lo seguì. E ricordo, diceva lei, Mr. Coxon Dodd che inseguiva Harry J dal suo cancello minacciandolo ogni volta che appariva con un coltello. E a proposito di questo brano, che è molto simile, che ricorda quella 5446 di Toots Hilbert, lei stessa disse che nei giorni in cui lo stava registrando era in compagnia proprio di Toots Hilbert e che probabilmente avrà ripreso qualcosa per la sua hit. Passiamo a Dawn Penn con la sua hit. No, no, no. No, no. Riguardo al mercato discografico in Giamaica, Dawn Penn ha riferito: non ci sono donne che comandano, è un business dominato dagli uomini, ci sono poche artiste donne in generale, ma soprattutto nel reggae la situazione è davvero negativa per le donne. Non voglio parlare male del mercato discografico in assoluto, perché questo significherebbe sputare nel piatto in cui mangio, ma è come se... Una volta questo mestiere era una sorta di affare rispettabile, cioè potevi guadagnare da viverti cantando per cominciare, ma a un certo punto quella del cantante non era più considerata una professione necessaria, o comunque non ti veniva riconosciuto un ruolo rilevante nella comunità, come ad esempio si fa per un avvocato. Oggi invece mi rendo conto che se in un video non appari vestita, anzi svestita, e se non fai tutta una serie di pazzie, come mostrare il più possibile la tua pelle, non hai successo. Io di solito non mostro la mia pelle al pubblico, ho troppo rispetto di me stessa per farlo, e invece di indossare un bel vestito corto, preferisco lasciare spazio alla mente e all'immaginazione. Per quanto mi riguarda, sono felice di essere in questo business da così tanto tempo. Certo, questo a volte mi fa sentire un po' vecchia e non so se a causa della mia età o del mio modo di vedere, ma questo non mi ferma dal continuare a cantare. adesso ci sentiamo tre brani di Jennifer Lara. Il primo è Ain't No Love. Hi honey, just passed by to let you know that after last night there ain't no love that's sweeter than your love. Jennifer Lara che inizia a registrare con Studio One bene nel 1974 e lì ha messo su un bel po' di hit come Consider Me, Do What to Me, One More Time, e tra l'altro era diventata anche la corista di Freddie McGregor. E da lì anche con lui ha fatto delle tournée internazionali, è andata a suonare in Inghilterra e sempre è stata accolta con entusiasmo dal pubblico. Così negli anni 80 anche Coxon Dodd gli fece registrare un album con Johnny Osbourne, un album sulle canzoni natalizie che si chiamava Christmas Medley. Quella che ci sentiamo adesso è proprio Consider Me. Saying this and saying that, yeah, people are saying this and people are talking that. This world is about to be rocked, but is it really a fact? Long time I say we no have no nice time. 400 years has been such a long time, so help me. Jennifer Lara anche negli anni 80 poi continuò la sua brillante carriera registrando anche con Prince Farai, con Tristan Palmer e negli anni 90 anche con Bounty Killer. Quindi insomma ha anche rivoluzionato i generi e si è sempre adattata a quelle che erano le mode del momento. Jennifer Lara. Consider me. Is it really a fact? Long time I say we no have no nice time. 400 years has been such a long time, so help me, cha cha. E l'ultima per questa tripletta di Jennifer Lara è Art So Bad, sempre lei a Studio One. Adesso passiamo a Norma Fraser con due brani. La prima è The First Cut is the Deepest. Fraser, che ha registrato la sua prima hit nel 1961, si intitolava We Will Be Lovers e scalò le classifiche giamaicane, rimanendo in classifica per tutto l'anno. E addirittura nel 1963 la stessa canzone fu rilasciata in Inghilterra attraverso l'Island Record, e questo le valse appunto l'ingresso in Studio One, e lei così poté esibirsi a fianco di Bob Marley and the Wailers, di Ken Booth, gli Scatolites, di Roy Wilson, e insomma comunque ha fatto parte di tante incisioni nella grande casa di Coxon Dodd, fino a poi anche diventare una corista presso un hotel in cui poi venivano ad esibirsi in Giamaica i vari cantanti soul, come per esempio Sam Cooke. Questo fino poi agli anni 90, quando lei decise di trasferirsi in America, e diventando a sua volta una corista per i vari gruppi che andavano, invece i gruppi giamaicani che invece si esibivano negli Stati Uniti, e fra questi ricordiamo Yellow Man e Inner Circle. Ci andiamo a sentire adesso è proprio una cover, parliamo di Respect, e questa è una cover ovviamente scritta nel 1965 da Otis Redding e invece poi ripresa da Aretha Franklin nel 1967, quindi due anni più tardi. E nel testo originale di questo pezzo il punto di vista di Otis Redding è quello di un uomo che chiede alla propria compagna di essere rispettato e considerato, e ovviamente nella versione di Aretha Franklin i ruoli vengono scambiati, e qui poi questa versione proprio di Aretha Franklin diventerà un inno dei movimenti femministi e per l'abolizione dell'apartheid da parte della minoranza afroamericana. Passiamo a delle artiste un po' meno famose, cominciamo da una medio famosa, Cecil Campbell, questa è la sua Leave Me in Misery. Bring all your charm. Adesso passiamo a Denise Darlington con la sua Feel So Good, sempre per Studio One, voci femminili Attica Blues. Prescindere dalla voce solista, quello che comunque si può riconoscere facilmente il sound di Coxon Dodd, ricordiamo qual era anche la sua grande trovata, che era quella di affidare a dei musicisti la direzione artistica, prima gli Skatalites fino al 1967 e poi, come detto, l'organista Jackie Me Too. It makes me feel like dancing, yeah. I like the reggae style. So play it for the wild. Oy, oy. So won't you come dance with me? I feel so good. This your reggae melody. I feel Irish. E passiamo a Doreen Shaffer con la sua Try a Little Smile. Now and then makes no difference where you're going. You may be feeling low, oh, but let your face glow. A smile is so easy and it comes naturally. Must remember, there'll be sunshine again. Every now and then, give your face a rest, treat your face a bit. Must remember, yeah, after rain, Nel 2016 il quotidiano giamaicano Stars ha pubblicato una classifica, una top 5 delle cantanti più famose della storia della musica reggae. E ovviamente a vincere è stata Marcia Griffith, ma poi quello che insomma ha deluso un po' era anche la classifica, le altre in classifica. Se pensiamo che al secondo posto hanno messo Aitana, lasciando fuori dalla top 5 delle cantanti del calibro di Rita Marley e di Judy Movat. E insomma, però Marcia Griffith penso che possiamo essere d'accordo. E adesso passiamo a The JTs con la loro Back People Town Corner. And we really not to speak in any war, but only introduced into you one and all. The dynamics on a really cause a Book Town Corner. Come make me tell you about the Book Town Corner in a little city, Kingston, Jamaica. Kingston, Jamaica. Bambili bapa ano chesa mi ya chesa nara gisa mi against it at the very very best in at the west. Ano chesa mi ya chesa nara gisa mi against it at the very very best in at the west. And when you check pon the corner, I tell you say fi ask him Mr. Peter. And where you say? Ask him Mr. Peter. Mr. Peter slide out a condom fit burger. I coming up, eh? I coming up, eh? Say two condom plain a little bit of island, a potion of ivy and two fried fish. And when you eat that, when it's a cup, I said it gave off a sound like this. Sense me now, I tell you about this, sense me now. If you want the good sense me now, I say if you check out a dread called Jalide. And if you want the good sense me now, I say if you check out a dread called Jalide. I know Jessa me, I Jessa Nara, Jessa me, I guess it at the very, very best in at the west. I know Jessa me, I Jessa Nara, Jessa me, I guess it at the very, very best in at the west. Say what? A Book Town Corner. A Book Town Corner. No bother with no fuss, no bother with no fight. Let's get together, let us all unite. Say that I'm hombre de anya, I want love, we want ya. Say no bother, come on ya. Wish part, pan the Book Town Corner. I know Jessa me, I Jessa Nara, Jessa me, I guess it at the very, very best in the west. I know Jessa me, I Jessa Nara, Jessa me, I guess it at the very, very best in the west. S, Book Town Corner, in a little city, Kingston, Jamaica. Book Town Corner, I tell you about the good sense in me now. E chiudiamo con le Webber Sisters con la loro Come On Home, sempre per Studio One. E iniziano a uscire anche le prime date dei concerti estivi, e per quanto riguarda il reggae vi possiamo segnalare già il 1° luglio l'appuntamento in città è con Uroi, e invece il 22 luglio la New York Ska Jazz Ensemble. E a questo proposito, la settimana prossima, giovedì prossimo, dedicheremo ai concerti estivi di quest'estate 2018 la puntata prossima di Attica Blues. E allora ci sentiamo giovedì prossimo, un saluto a tutti e a tutti.